avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait. Non avrei immaginato il successo Telefonate per il nostro salto all'indietro di 20 anni che vi abbiamo suggerito nella giornata di ieri. E quindi mi piace un po' riprendere il tema. Non ho mai parlato, non parlo molto, non è la mia passione parlare di politica, ma è un momento che, se devo guardarmi intorno, devo osservare il mondo che mi circonda, e questa in fondo è un po' l'essenza di questo programma, una osservazione molto personale, individuale, totalmente soggettiva, che si confronta ogni mattina con i punti di vista di altri ascoltatori che non hanno l'investitura di essere interlocutori particolarmente riconosciuti per la loro attendibilità, ma sono appunto le opinioni di persone come noi che osservano il mondo e raccontano. L'insieme delle osservazioni di tante persone fa un punto di vista che ha una qualche riconoscibilità come punto di vista comune. Questo è un po' lo scopo: congelare, raggelare, fermare giorno dopo giorno quelli che sono i punti di vista comuni. Beh, questa mattina non trovo altra maniera che parlare della politica, non di politica, della politica come un'entità astratta, come qualcosa che galleggia nei giornali, come qualcosa che è sempre più difficile ad essere colto. Sì, perché fino a una settimana fa era preciso il bersaglio, era semplice parlarne, era basico, era manicheo, non c'era possibilità di equivoco, e oggi bisogna ricorrere a categorie del passato. E chi non ha la memoria storica per avere una fonte individuale, personale, di queste categorie passate, cosa fa? Ascolta Melog. Ti ascolto. Sogno. Ho avuto un incontro con l'ambasciatore olandese, vero? Ho sognato. Cosa? Sogno così, ad occhi aperti. Desideri di stupro anche. Passivo, capisci? Atti? Nessuno. Come in politica. Sogno anche lì di prendere delle decisioni. La riforma sanitaria, medicine gratis per tutti, per esempio. E allora? E allora tu sai quanto mi sta a cuore questa riforma, è vero, ma non riesco a vararla. Toi via le operazioni e poi mi ritiro. È come una erezione mancata, capisci? E allora, che fare in questa immobilità? Bisogna aspettare che tutto si compia. Ecco, questo è un clima che chi ha meno di 40 anni non ha mai respirato, non ha mai sentito. Chi comunque lavorava nei palazzi dell'informazione, anche soltanto 20 anni fa, sentiva ancora le stanze, le moquette sulle pareti impregnate di questo odore misto di naftalina e incenso, di colonia dei tempi passati e di sudore represso in camicie linde, impeccabili, in grisaglie che sembrano tagliate con l'accetta, tanto erano perfette, squadrate, impeccabili. Questa era la stagione dei democristiani, stagione che avete dimenticato, stagione che non ricordate, stagione lontana, una stagione che interpreta mirabilmente questo film di cui abbiamo spesso parlato, Todo Modo. È il film che racconta un fantomatico luogo in cui c'era un ritiro spirituale in attesa di una svolta, un po' quello che sta accadendo adesso. Adesso non sappiamo se questo luogo si chiama Zafar, come il film di cui stiamo parlando, che è una specie di romitorio di preti in cui andavano questi potentissimi democristiani con un cattivissimo prete che li staffilava e poi li uccideva uno ad uno per impedire il passaggio e il cambiamento. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Tu sei molto più giovane di 40 anni, ma mi aiuterai questa mattina perché tu conosci le fonti, sei un archivista. E dico anche per informazione, per puro voyeurismo, chi volesse vedere Sansonna in tutto il suo splendore, vada a guardare questa mattina il mio profilo Facebook, perché prima di iniziare ci siamo autofilmati e pubblicati, così, per puro narcisismo. In realtà il narcisismo era il peccato più riprovevole dentro Zafar. Sì, questo è il film Todo Modo di Elio Petri del 76, tratto da Sciascia, e racconta gli esercizi spirituali ispirati a Sant'Ignazio di Loyola. realizzate all'interno di questo albergo, di questo eremo, il dramma, il nodo centrale è l'imitazione terribile che fa Volonté, perfetta, noschesiana nella sua maniacalità, che fa di Aldo Moro, prefigurando poi quello che accadrà, perché poi nel finale il personaggio di Aldo Moro, anche se non viene mai nominato, muore, viene ucciso. In realtà ebbe problemi, infatti, questo film. Il film fu maledetto, fu reso invisibile dall'attuazione della sua profezia. La sua, una profezia all'interno. Era troppo profetico, era tragicamente profetico. Era Moro che si avviava al compromesso storico, infatti finirà male, e come è accaduto nella realtà. E nel film è lui che in realtà ordisce l'eliminazione dalla Democrazia Cristiana, perché si autoconsidera un cancro all'interno della storia del paese. Ma la cosa interessante è che questa atmosfera curiale, claustrale, c'è cioè la confessione al perfido Mastroianni che fa la parte del prete, e si parla appunto dell'immobilismo e della repressione sessuale, che erano un po' i canoni della Democrazia Cristiana, che non era visibile. Allora la politica non era visibile come oggi, era da immaginare, quindi immaginare a tinte forti. Edio Petri da sinistra la osservava a tinte fosche, insomma. Ecco, la politica era un dietro le quinte, c'era una sorta di separé, c'era un sancta sanctorum in cui si celebravano i rituali della politica, e noi dall'esterno vedevamo solo l'esteriorità, l'aspetto dei grandi sacerdoti, che avevano però sempre questa sorta di abito liturgico impeccabile. Se ne sentiva anche l'odore, poi quando li frequentavi, li vedevi, entravano negli studi della radio, della televisione, o ti capitava di incontrarli, c'era sempre questo alone misto di incenso e naftalina, c'era la conservazione e la trascendenza unite in questi due offrori. 800240024, ve lo ricordate quel periodo? Portate testimonianza per chi non se lo ricorda e oggi legge giornali e non capisce, non sa di cosa si stia parlando. Basta, mi rifiuto di mangiare con ladri come voi. Cosa dici? Ladro sarai tu! Tu ladro, ladro di banane. Ladro di francobolli. Sì, ladri. Ladri! Ridono. Prima rubano e poi vengono qui a ridere alle spalle del popolo di Dio. Piangete. All'espiazione non si può sfuggire, avranno quello che si meritano. Tra questi personaggi c'era un insolito Ciccio Ingrassia, che non fa il comico, ma un personaggio tragico, forse il più drammatico di questi personaggi, il più martoriato. E poi aleggiano i peccati della carne contro natura. Se ne parlava già, ma se ne parlava con un certo senso di totale asetticità, perché si poteva dire tutto, come dentro un confessionale in questo luogo. I veri segreti sporchi legati agli intrallazzi, alla politica, alle ruberie, agli accordi, alle tangenti, c'era tutto, esattamente tutto quello che oggi è la luce del sole. C'erano anche le piccole porcellerie dell'uomo potente, ma rimanendo nel sommesso bisbiglio del confessionale. In queste penombre raggelanti appare Ciccio Ingrassia senza baffi che gli conferivano simpatia, coi capelli ravviati all'indietro come un surmolotto, come un ratto delle chiavi. Mi suggerisce un ascoltatore impomatati con brillantina a linetti. Linetti, la classica brillantina a linetti, che appunto era di quegli anni. E queste mani imbalsamava quelle teste corvine, perché la brillantina a linetti andava unita a Renova. Che era una sorta di tintura nera lucida per i capelli. Tutti hanno i capelli neri lucidi, non c'era ancora quel bel mogano che virava su tutte le nuanze del rossiccio che va di tanto di moda oggi. Era tutto nero lucidi, erano in carta percoriti, vecchi, rugosi, ma neri, corvini, e c'era questa sorta di corazza di brillantina che bloccava tutto. Si è parlato tanto di capelli asfaltati di Berlusconi, ma in realtà è un pallido imitare quello che erano i capelli mummificati in carta ipocrita, una sorta di elmetto contro le intemperie degli avversari politici. Anch'io ho commesso un errore, non ho mai usato brillantina a linetti, ti ricordi? Sì, polacco, il grande attore. In realtà poi Berlusconi forse è quello che più lo rappresenta, è una sorta di maschera artificiale quasi da Joker di Batman, forse è il film politico che lo ha preconizzato prima di tutto. Ma tornando al Flaminio Piccoli, a cui si ispira vagamente appunto Ciccio Ingrassia, c'è questo fisico, la Max Schreck, la Nosferatu di Murnau, che conferisce questo vampirismo democristiano, si diventa plastico, si materializza nelle penombre claustrali appunto dell'hotel. 800240024, noi stiamo ricordandolo attraverso la storia del cinema. Troviamo che non esista documentario calzante, spietato, allo stesso tempo interpretativo, non biecamente riproduttivo, delle realtà più complesse del nostro paese, che un certo cinema d'autore. d'autore, ma anche un cinema di genere. In questo caso stiamo percorrendo un cinema profondamente intriso di un segno di lettura, di interpretazione da parte del regista. Ma andiamo avanti nella nostra ricerca, in attesa che qualcuno possa contribuire e interpretare e corroborare la nostra visione con la sua testimonianza diretta. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale. 80024 0024. Vi ricordate come eravamo? C'è qualcuno che può ancora trasferire con la sua testimonianza questo periodo di cui si è persa memoria? Si è persa memoria perché è stato così forte, così mediaticamente coperto nel bene o nel male il periodo degli ultimi 15 anni, ma prima come eravamo? Ve lo ricordate? Qual era il rapporto con la politica? Com'era l'uomo politico? Come si rivolgeva all'uomo qualunque, l'uomo politico? E come veniva visto l'uomo politico? Quali erano i rapporti contigui, i rapporti promiscui, i rapporti che si avevano con la politica? E se qualcuno che ha più di 60 anni lo ricorda bene, con precisione, e vuole raccontarcelo, questa mattina ci fa veramente un grande servizio. Giuseppe Sanzona. Questo era Le mani sulla città del 1963 del regista del cinema civile Francesco Rosi, che affronta il tema della cementificazione selvaggia e degli abusi e conferisce al palazzinaro e consigliere comunale napoletano il volto leonino dell'Al Capone di Hollywood dell'epoca, cioè Rod Steiger, qui doppiato da Giuffrè, che quindi gli dà questa voce napoletana adatta al contesto e racconta con tono fra il documentaristico e la finzione un argomento caldo e chiave della storia d'Italia, del costume italiano, ecco, anche senza imitare personaggi realmente esistenti, ma andando al problema più che e conferendo comunque dei ritratti estremamente verosimili. Ecco, questo genere di film è un genere di film che in realtà è un film che politicamente rappresentava una presenza, un punto di vista, era l'equivalente di quello che oggi stanno facendo alcuni programmi televisivi, alcuni talk show. Allora non c'erano i conduttori che muovevano le piazze, ma i registi avevano una funzione simile. Secondo te la televisione era totalmente monopolizzata e lottizzata, ma anche nel periodo della riforma si guardava bene da toccare questi argomenti che erano alla base della sua stessa esistenza e costituzione. Il cinema invece aveva questa funzione, colmava una lacuna informativa sicuramente, però attraverso il macchinario, il dispositivo del cinema, gli conferiva anche intensità emotiva molto più radicale rispetto al tubo catodico. Sicuramente c'era una messa in scena, una forza, un'intensità con volti di attori, con un uso di luci, un uso di musiche e comunque un rigore civile che per esempio gente come Francesco Rosi aveva e conservava anche negli anni. 80024 0024, noi andiamo avanti in questa rassegna del passato della politica. È importante conoscere il passato, anche il passato remoto, anche perché del passato prossimo o recentissimo si è veramente detto e scritto proprio tanto. Abbiamo invitato nel nostro studio quattro autorevoli esponenti delle precedenti amministrazioni della città partenopea, che gentilmente risponderanno a quei telespettatori che nel corso del nostro incontro vorranno telefonicamente proporre quesiti ed opinioni. L'onorevole Lobove. L'onorevole Lobove. Iso innocente. L'onorevole Lobove e l'onorevole Lobove. Fratelli, immagino. Parenti? Noi no, quando mai? Ma per carità. Mai viste, mai conosciute. È ovvero no? Mai, papà. Dunque, una delle città più care agli italiani, Napoli, ancora oggi, sconta decenni di malgoverno. Gravi deficit nel bilancio comunale, il numero dei disoccupati era superiore allo stesso numero degli abitanti, strade sprofondate, palazzi smottati, il centro storico invaso da eserciti di topi, insomma una specie di anno mille. Ho una nota singolare, questo è un film del 76 e c'è la stessa gag, la stessa battuta che ho visto ieri guardando il film di Cetto la Qualunque con Antonio Albanese. anche lui quando presenta la sua squadra per proporsi come sindaco malavitoso, il più malavitoso dei comuni calabresi, ha tutti i parenti, tutti col suo stesso cognome. Chiede: siete parenti? No, non siamo parenti, ma hanno tutti lo stesso cognome. In questo caso invece di cosa stiamo parlando? Questo era Signore e Signori Buonanotte, un film collettivo. Hai citato Certo la Qualunque, un film ampiamente sfondato e superato dalla realtà, perché oggi la realtà è iper rappresentata. Allora nel 76, all'epoca di questo film, siamo sempre nel contesto di Todo Modo, anche se qui siamo in piena commedia, e bisognava ricrearla la realtà, anche un po' immaginarla, anche un po' coglierla appunto in queste figure caratteriali. Anche perché, ripeto, non c'era questo occhio attento e capillare della televisione su tutte le realtà, per quanto sia oggi il fatto di avere una televisione che rappresenta un po' tutti, con naturalmente non equilibri non certo sempre rispettati, ma rappresenta un po' tutti. Quindi al nord Italia si può vedere esattamente un punto di vista sul meridione d'Italia e viceversa. Allora è un pochino più difficile, anche sono gli anni 70, in cui sembrava che il paese fosse già attraversato da venti di novità e di spirito di rinnovamento, quando in realtà ancora, se non ci fosse stato questo tipo di cinema, di certe cose non è che si vedesse nel salottino di casa molto. Sì, qui Mastroianni fa la parte di Jacobelli, no? Animatore di questa tribuna politica, in cui appunto questi fratelli napoletani, politici napoletani, poi finiscono col divorare il plastico vespiano, che già allora appunto anticipatore di quello che poi sarà la summa di Porta a Porta. Divorano questi palazzi in cemento, divorano la città, fuori di metafora, la divorano proprio, mangiano la plastica, mangiano i tasselli, divorano tutto. Tra l'altro in quegli anni c'è un ricordo di Carmelo Bene, gli era indispensabile nelle sue orge, fra una prova e l'altra, guardare le tribune politiche. Diceva: io mi guardavo questa grigia TV appunto democristiana, e appunto diventava l'ingrediente fondamentale per animare la sua vita. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Giovanni. Giovanni, se riusciamo a prenderlo, l'ascoltatore Giovanni, è caduto? Vedo Rocchetti che si china sotto la console per raccattare qualcosa che ha a che fare con Giovanni. Ci abbiamo o no, Giovanni? Sì, sì, sono qua. Ecco qua. C'è stato un momento di defiance, sì, tecnica, l'abbiamo recuperato. Giovanni, 66 anni. 66 anni. Può aiutarci a ricostruire quel periodo, quel modo d'essere? È stato un periodo molto lungo, un periodo che nella mia memoria storica va dall'immediato dopoguerra fino, diciamo, ai primi anni 80, metà degli anni 80, poi qualcosa è cominciato a cambiare, perlomeno la percezione era quella. Ma io credo invece che non è cambiato assolutamente niente, anzi è peggiorata la situazione. Sì, ma perché? No, è cambiato molto, le persone sono cambiate, l'uomo politico... In peggio. Sì, siamo d'accordo, però io vorrei parlare di allora, i ritratti del presente se ne stanno, sì, facendo sin troppi. Mi piace, questa è una missione nostalgica, la missione deve ricostruire memorie passate. Allora, a quei tempi, quando io ero giovane e facevo politica, c'erano dei politici che erano persone... serie, erano punti di riferimento per noi giovani, erano persone specchiate. Che anni erano? Che anni erano? Gli anni 60, io ho cominciato a fare politica negli anni 60 e continuo tuttora. Sono gli anni in cui è stata ricostruita l'Italia, ma è stata anche saccheggiata in maniera abominevole l'Italia, quindi... Ma certamente sì, e dove c'erano amministratori seri il saccheggio è stato minore, perché poi comunque la speculazione è nella testa degli italiani, perché non voteranno mai un sindaco che promette di non fare terreni edificabili, come diceva prima nel film Le mani sulla città di Rosi, che ricordo molto bene, ma la gente comune vuole l'amministratore che gli consente di fare quello che vuole, per quello che Berlusconi ha avuto questo successo, anche se poi non mantengono le promesse. Nel mio comune ho fatto l'amministratore per 3 mandati all'opposizione. Quando mi sono presentato come sindaco ho preso un mucchio di voti, ma non sufficienti, perché comunque non garantivo al cittadino di fare quello che voleva. Lei quindi dice che in fondo è un'immagine esteriore che è mutata, che è cambiata la disponibilità nel darsi, nel mettere il proprio privato a disposizione di tutti, di partecipare a rutilanti spettacoli, di dichiarare, ma in realtà chiave costitutiva dell'uomo politico italiano non è mai cambiata. Assolutamente no, anzi si è affinata, nel senso che riesce a fare le stesse cose di una volta, magari in maniera qualche volta eclatante, se no riesce comunque ad arrivare dove vuole, perché con i soldi comprano tutto e chiunque. Purtroppo sì, è così, mi dispiace. Sì, visto che stiamo confezionando anche molti luoghi comuni, ne aggiungerò un altro. L'uomo politico di solito rispecchia il suo lettore, rispecchia la persona che lo mette a far politica, è l'esatta e speculare immagine di colui che dall'altra parte lo vuole, ma anche lo osteggia, anche lo abbatte, anche vorrebbe distruggerlo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Prima accettate il principio che la lettera sia segreta. Poi non è segreta. Il comitato ha deciso che niente va tenuto segreto al movimento rivoluzionario. Potevate dirmelo, l'avrei riscritta. Non c'era tempo, siamo in guerra, non siamo mica in Parlamento. Ma vi rendete conto che rendendo pubblica questa lettera avete offerto ai miei nemici l'occasione? E i miei nemici non sembrano essere pochi da quanto comincia a trapelare. Gli avete offerto l'occasione di svilire la mia integrità col rischio di creare un'atmosfera di indifferenza intorno alla mia sorte, ma anche intorno alla vostra. Vi rendete conto? 800240024, stiamo facendo un salto indietro, abbiamo saltato una fase della nostra politica, che è quella della Seconda Repubblica, visto che oggi già qualcuno parla della Terza Repubblica, ma andiamo a rimettere un po' le mani e la memoria su quello che era la Prima Repubblica. Questo si parla del Caso Moro, un film di Giuseppe Ferrara dell'86, sono in studio con Giuseppe Sansonna. Beh, il Caso Moro allora fu lo spartiacque, l'elemento chiave, fu la prima tremebonda bufera che passò attraverso queste grisaglie un po' irrancidite dei democristiani. Io per 10 anni ho avuto come direttore colui che fu il segretario particolare di Moro, uno dei suoi uomini dell'ufficio stampa, quindi so bene di questa vicenda quanto avesse colpito e traumatizzato quel tipo di politica. È lo spettro di Banquo della politica italiana. Qui, 10 anni dopo, Todomodo, Volonté ne riveste i panni, stavolta esplicitamente, però lo estrae dall'imitazione noschesiana, anche se grottesca, e lo immerge in un'imitazione carica, una interpretazione carica di sfumature umana, che coglie anche i lampi un po' ambigui del personaggio, ma anche quelli poetici nel finale, con quella poesia bellissima dedicata alla moglie, e quindi lo restituisce in tutte le sue sfumature anche complesse in questo film di Ferrara, che è didascalico nella regia, ma lascia molto spazio alla sua interpretazione. Sì, oggi siamo abituati che fanno male gli strali, fanno male gli articoli, gli editoriali, i programmi televisivi, la satira fa malissimo, ma allora si parla di pallottole, allora si dà per la prima volta la corazza invalicabile del politico attraversata la pallottola, cioè il politico adagiato dentro una macchina, nel suo sangue, qualcuno l'aveva ammazzato, aveva colpito, era come se si fosse abbassato un cordone di sicurezza, si fosse abbassata una saracinesca antiproiettile, e lì veramente il politico toccò con mano quella che era la realtà che stava nel mondo esterno, il mondo che lo circondava. Maria, buongiorno. Salve. Eccoci. Salve Nicoletti. Allora, io ti volevo dire che io ho vissuto, andavo all'università in quegli anni, per cui ho vissuto quegli anni. Per quanto riguarda il mondo politico, secondo me, vi dirò una cosa che forse mi avvenirà, io l'ho visto sempre come un mondo di nicchia, a livello politico e a livello, diciamo, cattolico. Nel senso che, siccome appunto non c'era, diciamo, trasparenza, io la direi una forma di... Lei era democristiana, Maria, immagino. Assolutamente no, io sono una persona di destra. Però sono, come posso dire... Ma in che anni era di destra? In che anni era di destra? Sono sempre stato... Sì, ma lei sta parlando di quali anni? Io le sto parlando degli anni 60, io ho 65 anni, quindi... Beh, anni essere 60, di destra degli anni 68. 60 era molto era rischioso. Molto difficile, sì. Era molto difficile. Ah, rischioso fisicamente. Io entravo all'università con i poliziotti che ci facevano la scorta, insomma, ecco, a questo livello, dove allora la parola bocconiana era, o perlomeno università di un certo tipo, o persone anche, era una parolaccia, se vogliamo, no? Per una certa classe politica. Quindi, per quanto riguarda il caso Moro, che ho sentito adesso e mi sembra, diciamo, attualissimo, diciamo, come quello che è stato detto poco fa nel film, attualissimo, diciamo che il caso Moro è stato un'implosione, nel senso che è esploso all'interno di una classe politica che aveva, diciamo, è sempre stata tesa a nascondere le cose o a minimizzarle oppure soltanto nelle segrete, diciamo, case o vaticaniste. Un morto è innascondibile. Un morto è innascondibile. possibile, però diciamo che in questo momento è svenuto molto allo scoperto, per cui si è creata una certa, una forma, secondo me, di anarchia politica, perché l'eccesso di liberalismo porta a una forma di anarchia, secondo me. Cioè, un certo di libertà controllo... o di liberalismo? Se no fa come Alberto Sordi quando lo inizia la massoneria, la libertà è bella, peccato che ce n'è troppa. Sono d'accordo con Alberto Sordi in questo caso. Vabbè, la libertà è una cosa, vabbè, che va vigilata. Ma giustamente, lei di resto agli anni 60. Anarchia. Certo, sì. E però chi vigila sulla libertà altrui? Chi... Vabbè, io penso innanzitutto che ci vorrebbe una vigilanza a livello personale, cioè individuale. Io non credo alla vigilanza collettiva, perché ognuno deve avere una coscienza di se stesso e dei propri limiti. Sì. Ecco, quello che manca oggi... Lei sopravvaluta, diciamo... l'essere umano, però. Prego? Sopravvaluta l'essere umano. Io lo sopravvaluto, purtroppo, cioè, io sono una persona che ha ancora dei valori e degli ideali. Io per esempio non so se lei ha visto ieri sera Fiorello, io ho avuto un'emozione, io ancora mi emoziono quando parlo di politica e quando vivo la politica. Io mi emoziono con tante cose, con Fiorello no, onestamente. No, ma è il mio limite. Con Fiorello, badi, non con Fiorello come persona, come alla fine, diciamo, ha esaltato bene o male l'Italia. Cioè la parola Italia in certi anni, sì, però, anche scusi, in quegli anni... Lei che è di destra, quindi nazionalista dagli anni 60. Nazionalista, però nazionalista non esagerata. Che l'orgoglio patrio sia nelle mani di un comico, mi sembra. No, innanzitutto Fiorello, io coerente, ritengo che sia un comico, nel senso stretto della parola. Diciamo, Fiorello non mi fa paura quello che dice Fiorello, mi fa paura altri comici, anzi satirici, perché adesso con la parola satira si nasconde tutto. Tutto è satira. Beh, è un bravo ragazzo, un bravo fantasista, ma... È un fantasista. Allora, diciamo che è molto sobrio, va bene, molto, molto sobrio. Visto che in questo momento abbiamo bisogno di sobrietà, cioè io ho letto un articolo di Chiara D'Argentini, non so se l'ha letto Chiara lei. Chiara D'Argentini, sì. Chiara D'Argentini. Sull'Oden di Monti. Ha fatto assolutamente rabbrividire. Si parlava di l'Oden. Dell'Oden, cioè, di Monti. Sì, ma già Filippo Facci ha scritto un altro contrarticolo dicendo che l'Oden è verde e non blu. Sì, però... Questa leggerezza, francamente, è ripugnante. Preferisco cantato l'inno d'Italia, come hanno interpretato ieri sera Fiorello, cantato in modo rap, che arriva sicuramente direttamente a una certa... Io non pongo mai limiti all'immaginifica volontà altrui di emozionarsi. Un anno fa si esaltavano a sentire Benigni che lo cantava come un ubriaco, adesso si esaltate a vedere Fiorello che lo canta in maniera rap. La forza dell'inno è proprio in questo, ognuno ci vede quello che vuole, Giuseppe. Siamo sempre invogliamo i colonnelli di Monicelli, insomma, quella mistica del patriottismo. No, mi interessava sapere chi è che le faceva paura, citava dei comici che le facevano paura. Insomma. Il rapimento di Moro, io mi trovavo in una certa situazione, cioè diciamo, il fatto che avessero preso Moro è stato vissuto dalla classe politica molto male. Ma non creda che il popolo abbia partecipato al 100%. No, c'era anche chi a parte le diceva hanno fatto bene. Veramente io rifuggo dalla violenza, sì. Io rifuggo dalla violenza, ma non creda, guardi, non sono stati di cattivo gusto, perché non hanno stappato le bottiglie di champagne, sì, sì. E non hanno buttato le munizioni. Questo è corretto, Maria, è vero, nel periodo del tempo, in quegli anni, nei giorni immediatamente successivi al rapimento Moro, c'era in Italia chi si fregava le mani, era tutto contento, e non parlo di giovani scavezzacollo. Andiamo avanti, Maurizio. Buongiorno. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Nicoletti, sempre ascoltata con interesse. Io sia allo spezzone riguardo il caso Moro, sia per quanto riguarda il discorso di Gassman, perché quel film l'avevo visto al cinema, me lo ricordo molto bene. Poi, signori e signori, buonanotte. Signor buonanotte. Era Mastroianni. Mastroianni. Ma sono sbagliato, scusi. No, Mastroianni era il, diciamo così, ho sbagliato, mi sono confuso, forse un po' per l'emozione. Ma niente, io volevo dire questo, la mia considerazione era questa. Io in quel film che vidi a Milano, un cinema del centro, in prima, ecco, vedevo la gente che si divertiva, si sbellicava dalle risa, ma io già non ridevo allora, perché vedevo queste considerazioni, queste cose, il dramma di Napoli, che secondo me poi era un dramma provocato, insomma, anche dall'allora, c'era ancora, forse eravamo ancora nella gestione l'aula, chiede l'aula, il taglio della 1.000 lire che veniva diviso, veniva data prima la votazione, prima delle votazioni e poi dopo. O la scarpa a destra e la scarpa a sinistra. Sì, lei dice in realtà veniva visto ancora come satira, come comico. No, non c'era il senso di accostamento concreto e reale a una realtà che si stava vivendo. Perché? Perché questa realtà non ci toccava. Chi non viveva in quel tipo di particolare incrocio urbanistico-geografico si sentiva lontano da quella realtà. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Niente, io sono stato uno di quelli che per mia disgrazia ero detenuto alla Sinara quando vi è stato il sequestro Moro e vi è stato un grosso dibattito. Era un detenuto politico lei? No. Sicuramente il mio processo è stato un po' politicizzato. Sono stato condannato nel 1970 all'ergastolo. Quindi il mio coimputato è uno di quelli che è stato richiesto in cambio di Moro. Ma cosa aveva fatto lei? Qual era l'accusa? Se vuole dirlo. Sì, posso dirlo. Guardi, a me mi sono imputato da un favoreggiamento e sono finito in un concorso morale in un omicidio di un gioielliere. È stato condannato all'ergastolo, ma le dico sinceramente... E quanti anni ha fatto? Quanti anni ha fatto? 40. Si è fatto 40 anni di prigione? 40 anni di prigione, sì. E adesso? E adesso sono stato un po' fuori in semilibertà, adesso sono libero incondizionale, mi hanno dato la liberazione condizionale dopo 40 anni. Ecco, cosa deve... Oltre 40, perché poi sa, ci sono gli abbuoni, i 90 giorni l'anno, via dicendo, quindi come abbuoni... Comunque se ne è fatta stati... tanta. Il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che... Anzi, testimonianza. Non erano, da quello che ho visto io, i compagni non erano tutti d'accordo che della fine che ha fatto Moro. Difatti dopo l'uccisione vi è stata un po' una spaccatura nell'interno. Ma lei lo vedeva dall'interno del carcere? Sì, dall'interno del carcere. Eravamo alla Sinara con il direttore che era un po'... E chi c'era lì di brigatista noto, famoso, storico insieme a lei? Ma c'era Renato Curcio, c'era Franceschini, c'era Bonisoli, c'erano un po' tutti. Lei ci parlava, li vedeva... Storico. Erano aperti anche coi detenuti, diciamo, comuni, parlavano di queste cose? No, lì eravamo un braccetto piccolo, perché proprio in un angolo, un braccetto corto della Sinara, dove più o meno erano tutti politici. Ma lei il giorno del rapimento Moro era con loro? Ero la Sinara. E come hanno reagito loro? Cosa dicevano? Ma... Lì c'era un isolamento quasi totale, quindi gli incontri non c'erano diretti, c'era il passaggio di bigliettini, non c'era... Sì, sappiamo che in carcere non c'è isolamento che tenga, le notizie circolano. Sì, ma lì c'era un isolamento, perché proprio lì il direttore aveva fatto delle gabbie, nei cortili, proprio delle gabbie, proprio chiuse come un pollaio, no? Allora, Giuseppe, facciamo una cosa. Giuseppe, guardi, siccome devo dare la linea al traffico, fermiamoci solo un minuto, resti in linea perché il suo racconto è interessante, vorrei concluderlo senza fretta. Diamo le informazioni del traffico, poi riprendiamo con Giuseppe, che è stato testimone di quello di cui noi stiamo parlando, da dentro un carcere speciale alla Sinara. Era gomito a gomito con gli uomini chiave delle Brigate Rosse, che in realtà non gestirono, pare, il caso Moro, però sicuramente ne erano ben informati. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma forse avete sbagliato persona. Io non ho alcun potere istituzionale, non ho incarichi di governo. Ma tu sei la Democrazia Cristiana. Noi non vogliamo processare te come persona, il privato cittadino, il padre di famiglia. Ma ciò che rappresenti, il simbolo, la funzione, il partito che tu incarni. Così come io rappresento tutto il proletariato. Il mio partito è un partito autenticamente popolare. È un grande partito di massa, fatto di gente umile, operai, contadini, impiegati. Tu parli di gente, noi invece parliamo di classi, di lotta di classe, appunto, di odio di classe. E io non riesco a odiare neanche lei. Non credo che l'odio di classe, che la lotta di classe sia il motore della storia. La gente ha paura, vuole vivere in pace. E il mio partito è proprio il partito della tranquillità, della normalità, della carità. Questo è il dibattito tra dibattere tra Moro e uno dei suoi carcerieri, in sottofondo la vecchia sigla del TG unico della RAI. E dice il mio, il partito della tranquillità. Che film si tratta questo? Un giorno notte di Bellocchio del 2003, qui Roberto Erlitz che veste i panni di questa figura quasi sacra, ecco, siamo nell'evoluzione, si è partiti da Todomodo, si è passati dal caso Moro, la profezia maledetta, la lettura secondo i documenti del tempo realistico, e qua siamo all'idealizzazione. Sì, l'idealizzazione assoluta, una figura appunto quasi sacra, al di fuori delle parti, al di fuori della storia, se vogliamo. Che è l'allontanamento più repentino da ogni forma di verità alla fine. Il santo, Bellocchio crea un santo vestito magnificamente dalla grandezza attoriale di Erlitzka, però appunto è quasi onirica la sua percezione qui. Invece il 16 marzo del 78 non si respirava certo aria di santità. Al carcere dell'Asinara, dove stava recluso l'ascoltatore Giuseppe che abbiamo al telefono, accanto ai brigatisti il nucleo storico delle Brigate Rosse, Franceschini, Curcio, Bonisoli. Giuseppe, riprendiamo il suo racconto. Cosa accadde allora quel giorno? Ma guardi, quel giorno, il giorno del rapimento, insomma, è stato un po', insomma, avete festeggiato? No, non c'era, la cosa era presa dal punto di vista dove eravamo noi, era visto come si sarebbe subito un qualcosa, insomma. Cioè, avevano paura che facevano una forma repressiva. C'era tensione, c'era molta tensione. La tensione proprio era palpabile per la cosa, che era abbastanza, era grandissima per quel periodo. Lei ha detto che uno dei suoi compagni di cella, se non ho capito male, era tra le persone che poi avrebbe voluto costituire il riscatto per la liberazione di Moro. No, il mio coimputato. Al suo coimputato? Sì, il mio coimputato. Sì, era uno nella lista di quelli che lui prima era dei nuclei armati proletari, dopo è passato alle Brigate Rosse. Ecco, invece i capi storici come commentavano, anche se avevate le debite distanze? Direttamente era difficile commentare, gli ho detto, c'era un isolamento totale, veramente totale, era un clima incredibile, guardi, c'era con il cambiamento di cella anche di notte, 2-3 volte a settimana si cambiava da una parte all'altra, era veramente una situazione veramente triste, vi era proprio anche... A livello di alimentazione ci facevano tutti i dispetti del mondo, ci urinavano dentro la pentola, ci massacravano la roba che arrivava di casa, era una situazione veramente tragica, mi creda, glielo dico io che ho fatto 40 anni quindi e ne sono sopravvissuto, mi può credere. Lei al tempo da quanto tempo stava dentro in quegli anni? Erano 8 anni, ha già fatto 8 anni? Avevo già fatto 8 anni. Giuseppe, poi dopo il primo, diciamo, sicuramente sì. Il coso è per me, come l'ho vista io, la cosa dopo, quando vi è stato il ritrovamento del cadavere dopo 55 giorni, sì. Dopo 55 giorni non, almeno io non lo, direttamente era impossibile parlarsi, ma per quel poco che si sussurrava vi era sicuramente una grossa parte che non era d'accordo, Ma sì, poi Franceschini qualche anno dopo, nel metà degli anni 80, uscì, scrisse sul libro, raccontò tutta la storia, quindi si capirono quelle che erano poi almeno nella loro lettura i tronconi, sì, certo, all'interno di questa gestione. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Anche lei ha una testimonianza meno cruenta, meno cruda, ma di quegli anni. Sì, certo, la mia è proprio l'assoluta normalità. È il pensiero geometrico sindacale e politico del 74, mi è venuto in mente proprio molto chiaramente. C'era una grandissima azienda, avevamo 4 sindacati, CGL, CISL e UILM, e un forte sindacato autonomo. E all'interno di questi 4 sindacati agivano le 3 sigle politiche, che erano la cellula del Partito Comunista Italiano, il GIP, Gruppo di Iniziativa Politica della Democrazia Cristiana, e il NAS socialista, il nucleo aziendale socialista, il quale NAS era poi presente in tutti e 4 i sindacati, aveva una specie di fascia di zoccolo duro di presenza in tutti e 4. Era un potere indiscutibile a quel tempo, quello dei sindacati, non c'era possibilità di fare un passo al di fuori, diciamo, di questa gabbia dei sindacati, naturalmente. Cioè, sì, era una ripartizione geometrica proprio perfetta. Il punto cruciale fu il 74, quando c'è stato il referendum sul divorzio, che era tra l'altro il primo referendum italiano dopo quello istituzionale del 46, sì. E lì ci fu una spaccatura nettissima. Ovviamente la Democrazia Cristiana attraverso la CISL era assolutamente contraria addirittura che se ne parlasse, mentre i socialisti, i comunisti, un repubblicano che noi tenevamo come una specie di icona e cercavamo sempre di portarla da tutte le parti, organizzammo attraverso la CGL e la UIL uno spettacolo teatrale autogestito fatto da sì, noi. La sigla però mi dice, ho capito, la sigla mi dice a favore del divorzio. A favore del divorzio. In conclusione di questa divertente e drammatica trasmissione, non posso dire che alla fine proprio il problema del divorzio, quello che era una spaccatura nella politica, era un segno dei tempi. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.